la fio, con dolcezza e con amor, fai tu per me. Va, che la mia felicità vive solo di realtà, vicino a te. Voglio vivere così, con il sole in fronte, che felice canto, beatamente. Voglio vivere e godere l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Ardentemente che rusciano impertinente menestrello dell'amor. Ah, la fiorita delle piante tiene in festa questo cuore, sai perché? Voglio vivere così, con il sole in fronte, e felice canto, canto per me. Anni sole d'or, ma carezzi dal calore, sei buono tu. Tu che respiri il mio respiro, ogni pena sai lenire, campagna tu. Sai perché voglio vivere così, con il sole in fronte e felice canto.